9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. E ancora, in apertura, manteniamo il nostro ascoltatore Angelo da Bergamo, che ci ricorda qual è effettivamente la situazione. Siamo in attesa. Oggi alle 10 Pierluigi Bersani incontrerà i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Ci sarà tra l'altro la diretta streaming e chissà quanto il fatto che ci sia la diretta streaming influirà effettivamente sulle decisioni. Un ragionamento da fare sul quale si soffermano molto i giornali oggi. Ma noi oggi vogliamo affrontare la vicenda dei due Marò. Tutto lo svolgimento è poco chiaro, per molti aspetti una vicenda indecorosa, ma non sono io a dirlo, lo scrivono e lo dicono quasi tutti. Oggi molti giornali si soffermano sul fatto, sostengono almeno, retroscena, editoriali, commenti, sostengono che in queste dimissioni del ministro degli esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, ci sia la mano del centrodestra, addirittura chi scrive direttamente la mano di Berlusconi. Questo per consentire al PDL poi di sparare direttamente su Monti ed evitare quindi un'eventuale possibilità a Monti di diventare un ministro degli esteri o eventualmente aspirare al Quirinale. Questo è quello che sostengono i giornali. Noi abbiamo deciso di giocarci un po' sopra su Twitter, quindi l'hashtag di stamattina è Conto Terzi, se volete interagire con noi, oppure potete chiamarci all'800 24 00 24. Domenico Rossi, deputato di Scelta Civica, generale di Corpo d'Armata, già sotto capo di Stato Maggiore dell'Esercito, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Saluto anche Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, ex sottosegretario alla difesa, spesso lo ospitiamo per cose economiche perché anche di questo si occupa, però insomma il ruolo che ha svolto nel governo Berlusconi è stato quello. Crosetto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno generale Rossi. All'onorevole Rossi. All'onorevole Rossi. L'ho conosciuto da generale. L'ha conosciuto da generale, l'onorevole Rossi. Mi cambia i saluti cordialmente, veramente un ottimo ricordo, un ottimo rapporto. Benissimo. Rossi, c'è la mano del centrodestra? Io invece vado direttamente per cognomi, senza titoli. C'è la mano del centrodestra nelle dimissioni di Terzi? Ma guardi, certo che i sospetti vengano, perché se è vero come è vero che il ministro Terzi aveva concordato un testo verso le ore 13:30 con il Presidente del Consiglio e alle 15 viene a riferire annuncio le dimissioni, o è stato fulminato sulla via di Damasco, oppure qualcuno o qualcosa è intervenuto. E chi sospetta lei? Diciamo che evidentemente gli unici che potrebbero avere un interesse a riguardo è evidentemente il centrodestra. E questo perché? Per far male a Monti sostanzialmente? Ma questo in relazione evidentemente a elezioni a breve o media scadenza, in cui magari vedremo Terzi presentarsi con Fratelli d'Italia o con il PDL. Ah, ecco qua, visto che abbiamo proprio Crosetto, che è anche coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, c'è un'ipotesi di questo genere, Crosetto? Perché insomma i giornali ne sono pieni, come dicevo stamattina, giusto per essere chiari, non è che lo scrive solamente Repubblica, perché qualcuno su Twitter ci dice, vabbè, citate Repubblica, non è che lo scrive solamente Repubblica, c'è anche il Foglio che dice, insomma, Terzi si dimette male per farsi bello con il PDL. Crosetto? Non è che cambio il giudizio su Terzi perché si è dimesso, cioè questa vicenda è stata gestita malissimo in modo complessivo dal governo italiano, dal ministro, dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri, dal Ministro della Difesa, da tutti. Cioè non è che il fatto che sia arrivato ieri, si è dimesso, l'abbia liberato dalle colpe su tutta la vicenda, che non inizia due settimane fa, una settimana fa, ma che inizia quando ci fu la decisione di far scendere i Marò della nave, una nave italiana che era, con cui erano rientrati nel porto indiano. Quindi non è che il mio giudizio su sulla vicenda cambia perché adesso forse Terzi si è rimesso per mettere in difficoltà Monti. Se uno ha fatto un errore, ha fatto un errore. Se uno ha fatto un grandissimo errore, ha fatto un grandissimo errore, anche se si dimette, anche se mette in difficoltà Monti. Per cui anche la battuta sulla possibile candidatura, per carità, ma siamo seri. Non lo candidereste mai, insomma, a questo punto? No, dove... io ritengo che questo... No, ma no, perché non è che ha il marchio dell'infamia. Ha gestito malissimo, assieme agli altri membri di questo governo, la vicenda di Marò, punto. Compresa l'ultima, perché noi non, l'Italia come paese civile non restituisce un cittadino non italiano a un paese dove c'è la possibilità ci sia la pena di morte. Cioè la nostra legge ci vieta di restituire un cittadino americano agli Stati Uniti se quel cittadino è condannato a morte. Quindi col rischio della pena di morte bastava coordinare un intervento in qualche modo con la magistratura per avere anche la scusa diplomatica per tenere qua i Marò. Per cui è stato gestito malissimo questa vicenda. Ci sono alcuni punti che, nonostante l'informativa di ieri del ministro Giulio Terzi, che insomma è stata piuttosto puntuale, io vi consiglio sempre, leggetevi naturalmente i giornali che fanno degli ottimi resoconti, ma quando ci sono queste vicende, abbiamo la fortuna di avere internet, abbiamo la fortuna di avere degli ottimi stenografi in corso di seduta alla Camera, per cui vi trovate l'integrale, il riassunto integrale di tutto l'intervento del ministro Giulio Terzi. C'è qualche buco, almeno all'apparenza, in tutta la vicenda, a partire da come tutto è iniziato. Ce lo chiede anche un ascoltatore proprio via Twitter, ve lo ricordo ancora, l'hashtag che stiamo usando è Conto Terzi, e giro questa domanda a Domenico Rossi, perché poi insomma dice: chi dall'Italia ha dato l'ordine alla Enrica Lexi, cioè alla nave sulla quale c'erano i due Marò accusati di aver sparato e ucciso due pescatori scambiandoli per pirati, di entrare in porto e quindi di spostarsi di fatto in acque territoriali indiane? Chi è stato? Il comando militare? L'armatore? Perché su questo, da quel che ho letto anche dai resoconti parlamentari di ieri, è rimasto qualche dubbio, perché nell'intervento del PD, per esempio, i Pistelli si sottolineava che la cosa è avvenuta tramite una semplice telefonata di fatto tra l'armatore e il comandante della nave. Rossi, si è capito qualcosa di questo? Diciamo sì, secondo me dobbiamo distinguere la responsabilità da tutti quelli che possono essere intervenuti. Sicuramente la responsabilità, stante la normativa come è stata, diciamo, redatta o come è al momento, la responsabilità della decisione di invertire la rotta della nave spetta al comandante della nave, e il comandante della nave, stante le regole della legge 130, che poi, diciamo, ha regolato la possibilità di team militari di essere a bordo di navi mercantili, non prevede una partecipazione militare a questa decisione, oppure la possibilità del comando militare di opporsi alla decisione della nave. Evidentemente il comandante della nave fa capo all'armatore, quindi è presumibile, anzi è molto veritiero, che alla fine sia stato il comandante della nave a decidere dopo una telefonata all'armatore. È presumibile questo, ma allora c'è un buco evidentemente da questo lato di copertura dei nostri militari? A mio avviso c'è un punto ed è uno degli aspetti che ieri ho richiamato nel mio intervento alla Camera, cioè il problema. Cerchiamo di prendere come lezione appresa quello che è successo, perché noi abbiamo 10.000 militari nel mondo e non vorremmo che ci si trovassero nelle stesse condizioni. Evidentemente c'è un qualcosa da perfezionare, che potrebbe essere o il passaggio in casi analoghi della nave sotto comando militare, oppure assunzione di responsabilità politica sulla situazione, esonerando in questo caso il comandante della nave dalla possibilità autonoma di decisione circa la rotta da seguire. Crosetto, c'è un buco da questo lato dunque? C'è un buco volontario, perché quando fu discussa questa legge, la proposta del Ministero della Difesa fu quello, in casi come questo, di passare la nave, passi sotto il comando, tra virgolette, del militare più alto in bordo. ci fu una grandissima opposizione da parte degli armatori, che diventò opposizione da parte del Parlamento, per cui quella norma non passò, per cui questo buco è rimasto per questo motivo. Nel senso che non è che non fu in allora posto questo tema nella discussione della legge. E però, insomma, si è deciso diversamente. Però il Parlamento ha deciso invece di lasciare la responsabilità al comandante, senza pensare che il comandante risponde all'armatore, che ha logiche diverse da quelle che può avere un paese. L'armatore in quel momento, risulta a tutti che sia l'armatore che abbia deciso il rientro in porto, si pose il problema più di avere la possibilità di ritornare in futuro in India con le sue navi, no? Piuttosto che quella di preservare le persone e la sicurezza anche delle persone che c'erano a bordo. Iniziamo a sentire qualche telefonata e qualche ascoltatore. Innanzitutto Mauro, che ci chiama da Viterbo, buongiorno. Buongiorno, io volevo soltanto parlare di quello che secondo me sembra una ipocrisia, diciamo, un po' generale da parte dei politici rispetto a questa faccenda, come è successo in passato, faccende che hanno riguardato i militari che sono stati mandati a difendere l'onore della bandiera italiana e poi abbandonati per giochi che credo politici e di anche di economia internazionale, perché sappiamo benissimo che l'Italia ha anche degli interessi in India da salvaguardare e credo che questo abbia influito molto sulle decisioni prese poi per la salvaguardia invece di questi due marò. Quindi lei dice si parla troppo delle questioni del ministro e non del fatto che forse i due fucilieri della Marina sono stati trattati come merce di scambio. È stato questo in parte al centro dell'intervento del deputato del Movimento 5 Stelle che ci segnalate su Twitter, tra l'altro, il tema dei nostri interessi economici e dei nostri rapporti diplomatici con l'India. Quanto può aver giocato Crosetto proprio questo, i nostri rapporti economici, le questioni di appalti naturalmente? Forse abbiano giocato molto e sarebbe stato un grande errore, ma su questo deve rispondere il governo. Oggi Monti alla Camera dovrebbe rispondere questo anche. Cioè, avete preso questa scelta per altri motivi? Questo è il tema centrale. Però mi sembra difficile che risponderà Monti su questo in maniera nitida. Anche a me sembra difficile, ma se, come dicono tutti, ci sono stati ministri che non c'entrano nulla con la vicenda, che sono intervenuti pesantemente sulla vicenda, perché i giornali riferiscono anche di posizioni molto dure, ad esempio del ministro delle attività produttive, probabilmente qualcos'altro c'è nella logica che ha portato a questa conclusione, diciamo, surreale. Però questo può solo saperlo chi c'era, non possiamo ipotizzarlo noi, quindi in teoria dovrebbe dirlo il Presidente del Consiglio alle Camere. Ci sono state altre valutazioni, perché non è che le valutazioni fatte tra i ministri e il Consiglio dei Ministri dovrebbero essere, non dico in streaming, visto quello che dicevamo prima, ma condivise col popolo e col Parlamento. Rossi, quanto possono aver giocato gli interessi economici nella decisione di rimandare indietro i due fucilieri della Marina? Ma io mi auguro che non abbiano agito su questo, però evidentemente mi unisco a quello che ha detto Crosetto, cioè che effettivamente l'unico che può dirci qualche cosa può essere il Presidente Monti oggi pomeriggio, anche se in effetti per alcuni versi le parole del Ministro Terzi mi hanno preoccupato, perché evidentemente il valore della vita umana e il valore dei due soldati non può essere sottomesso a nessun tipo di accordo o di considerazione commerciale. E che passaggio l'ha preoccupata dell'intervento di Terzi? Nel momento in cui si è soffermato per illustrare alla Camera dei Deputati esattamente il livello degli scambi commerciali e il fatto che nell'ultimo decennio questi siano aumentati in modo esponenziale, nonché che questo era un punto delicato sia per noi e sia per l'India. Sentiamo anche Crosetto, se non sbaglio lei ci deve salutare, mi hanno scritto adesso, no? 9:25, sì. Vede che precisione. Insomma. Sì, grazie, scusate. Buona giornata, sentiamo. Buona Fulvio. Giornata, arrivederci. Fulvio dalla provincia di Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno, intanto saluto l'amico Crosetto perché abitiamo a 8 chilometri di distanza Ho apprezzato moltissimo il suo intervento. Io sono il papà di un fuciliere del secondo reggimento Alpini e volevo semplicemente dire che nelle caserme non si parla d'altro di questa situazione. L'impressione che i ragazzi e le ragazze, che purtroppo non possono esprimersi perché i militari non possono esprimere il proprio parere, è quello che sostanzialmente questo governo ha usato, sta usando i nostri militari come merce di scambio per questioni politiche e diplomatiche. Questo è veramente inaccettabile. La politica dovrebbe risolvere questo problema e purtroppo i risultati è quello che stiamo verificando. E lo dico io che sono capogruppo consigliere nel centro-sinistra, quindi mi piacerebbe anche che il centro-sinistra si esprimesse in modo corretto e sostenesse soprattutto questi due fucilieri che si sono trovati in una situazione, al di là delle responsabilità personali, però non si possono usare i militari come merce di scambio. Questa è la mia posizione. Quindi c'è preoccupazione, dice, anche tra i colleghi anche, di suo figlio, insomma. Assolutamente, ma in tutte le caserme, perché sicuramente questa situazione viene discussa all'interno delle caserme, ragazzi e ragazze che sono volontari. Oggi è toccato i due Marò, ci chiediamo tutti che cosa può succedere tra un mese, tra sei mesi, con un governo che si è dimostrato ad oggi sicuramente incapace a gestire questa situazione in modo corretto. Questo è... Mi sembra un'ottima notazione quella di Fulvio Domenico Rossi. Insomma, in effetti, probabilmente, non so, lei manterrà naturalmente contatti con i suoi colleghi, lo ricordiamo, Domenico Rossi, deputato di Scelta Civica, ma anche generale di Corpo d'Armata. E c'è preoccupazione nelle caserme. C'è preoccupazione nelle caserme. Due aspetti su questa notazione. Intanto ritengo che dopo quello che è successo ieri alla Camera e le dimissioni in diretta del ministro Terzi, il personale militare si è ancora più preoccupato, perché se c'era un appello che avevamo di fronte dei due Marò, era un appello alla coesione politica, era un appello a una coesione che dicesse cercate di risolvere la vicenda e smettete di rimpallare le responsabilità. Mi sembra che ieri invece lo spettacolo che sia stato offerto alla Camera sia stato di assolutamente contrario. Il secondo punto è che non a caso uno dei punti del mio passaggio alla Camera di ieri è stato proprio rivolto alla preoccupazione per tutto il personale che in questo momento, sono circa 10.000 persone, sta operando nei teatri operativi, sta operando con la normativa vigente e a cui che rimane sbigottito nel vedere che a distanza di un anno e mezzo evidentemente questo caso non si è risolto e in cui ancora ieri nessuno ha offerto una soluzione reale, né il governo né le parti politiche. È ora di finirla di chiacchierare, è ora di vedere esattamente se si riescono a riportare i due sottufficiali sotto la giurisdizione italiana oppure se si riesce effettivamente a portare a un arbitrato internazionale che vada sopra diciamo la giustizia indiana. Se riusciremo a dare nel breve questa risposta, probabilmente il personale militare potrà variare quell'onda di preoccupazione che in effetti c'è, io la conosco perché sono a contatto con il personale e che anche ieri mi è stata espressa dal COCER, cioè dal massimo organismo di rappresentanza che era presente. È un appello comunque alla coesione, io ho parlato anche con i familiari dei due Marò, che viene anche dai parenti, dai familiari, e non è un caso quell'urlo riportato a casa mio marito che è echeggiato nella camera. 9 in punto. Continuate a scriverci con l'hashtag che abbiamo scelto stamattina su Twitter, Conto Terzi, poi ci sono altri ascoltatori in attesa, e continuate a scriverci a proposito degli interessi economici per i quali l'Italia avrebbe sacrificato i due fucilieri della Marina rimandandoli in India, 300 milioni per vendere siluri all'India, più altri interessi di Finmeccanica, questo è il valore che hanno dato alla vita dei Marò, ci scrive Pablo, David, soldati sacrificati per interessi e politica, che novità, naturalmente il tono è ironico. Vincenzo Camporini, generale capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2008 al 2011, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, buongiorno. Buongiorno a lei che ci ascolta. Lei li legge, perché mi sembra che stia diventando un po' questo il tema, lo legge questo scambio? Purtroppo no. no, sono in Tessin in questo momento, quindi non ho modo di vedere queste. No, no, ma no, se legge lo scambio, se lo vede, insomma. No, se lo scambio di messaggi. No. Su questo non ho informazioni. È certo che esistono dei grossi interessi ed è certo che in una situazione di conflitto ovviamente di tipo diplomatico tra due paesi come l'Italia e l'India, questi interessi possono soffrire. Ora, se questo è stato legato alla decisione di restituire all'India, di rinviare in India i due marinai, questo non lo so, preferisco non saperlo. Mi stupisce però che qualcuno non abbia previsto le reazioni indiane alla decisione italiana di trattenerli in Italia. Quando venne comunicata questa informazione, io rifiutai di essere intervistato da una televisione perché oggettivamente non sapevo che cosa dire. Il mio auspicio era che ci fosse un accordo sottobanco fra il governo nostro e il governo indiano, in modo tale che dopo qualche giorno di ammuina tutto venisse passato sotto silenzio. Evidentemente questo non c'è stato, il che è una dimostrazione, perdonatemi, di enorme dilettantismo. Tra l'altro ci scrivono proprio a proposito di questo, ci scrive un ascoltatore: la vera follia è stata dichiarare pubblicamente che avremmo tenuto i Marò in Italia 15 giorni prima della scadenza. Ci si sofferma anche su questo nei famosi retroscena, ai quali ovviamente non sappiamo mai che credibilità dare, ci fidiamo dei nostri colleghi per principio, però insomma non sappiamo che affidabilità dare. Si dice che non era stata concordata con Monti, a quanto pare nemmeno l'annuncio, si pensava di tenere nascosta e segreta la cosa e fare delle trattative insomma sotto traccia, sotto banco, chiamatele come volete, con l'India. Tony Capuozzo, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Giornalista di Mediaset, conduttore di Terra su Canale 5, è una delle due persone alle quali è arrivata una mail dei nostri Marò, di La Torre, se non sbaglio, Tony, no? Di La Torre, che ha ben raccontato la vicenda. Tony, come valuti la conclusione di ieri, almeno a livello politico? Guarda, non ti nascondo che dal mio punto di vista personale ritengo che le dimissioni, probabilmente non solo del ministro degli esteri, insomma, fossero un atto dovuto, perché quando si va incontro a una sconfitta così cocente in un quadro contraddittorio, insomma, quando si ottengono dei risultati così poco lusinghieri, io credo che l'istituto delle dimissioni, sia pure in un governo dimissionario in toto, insomma, no? Abbia una qualche nobiltà, specie in Italia, insomma, dove non è molto diffuso. Detto questo, credo che in questo momento, per essere concreti, è molto importante che ci sia una qualche continuità. Se devo fare un nome, il nome di Staffan di Mistura, che si sta occupando giorno per giorno della questione, è molto importante che qualcuno resti al suo posto per evitare che la confusa fase di formazione di un nuovo governo veda un vuoto di istituzionale italiano nell'affrontare la questione, e peggio ancora che qualunque sia il governo che si va preparando consideri la questione di due Marò come un'eredità scomoda, in conto terzi, insomma, in qualche modo un'emergenza minore. Voglio sentire qualche ascoltatore ancora e poi torniamo da Domenico Rossi e da Vincenzo Camporini. Rosario dalla provincia di Salerno, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sto ascoltando un po' la discussione. Volevo solo dire una cosa, insomma. Io penso che questi Marò italiani, i nostri Marò italiani, avevano l'obbligo morale di ritornare in India, indipendentemente poi da responsabilità, perché qui comunque ci sono due morti, ecco, due persone che sono morte, e quindi loro hanno dato un codice d'onore, hanno un codice d'onore, solo per questo già sarebbero dovuti ritornare, poi la politica si deve interessare come farli tornare. E poi, se mi permette, un'ultima cosa, vorrei capire chi ha dato l'ordine di dare il fuoco, visto che essi erano pescatori, no? cioè, come hanno attaccato questa nave con le reti, con, non lo so, insomma, si dice erano scambiati per pirati, però questo non è chiaro come sia avvenuta la cosa. Questo volevo dire, la ringrazio. Sì, tra l'altro là non è nemmeno chiaro, perché in realtà i fucilieri della Marina sostengono di aver sparato in aria Domenico Rossi, no? Certo. Noi per quello che conosciamo sappiamo che la Torre Girone, ovviamente come tutti i team imbarcati, hanno delle regole d'ingaggio e che le regole d'ingaggio sono state rispettate, quindi hanno sparato cinque raffiche, circa una ventina di colpi, cui è seguito l'allontanamento dell'imbarcazione sospetta, che era giunta a circa 50 metri dalla petroliera. Ora, non dobbiamo dimenticare che comunque la zona era soggetta ed è soggetta a vari episodi di pirateria, e dobbiamo ricordare questo perché in senso generale qualcuno ha messo anche in dubbio, diciamo velatamente, certa inutilità di determinate azioni. Non ricordiamo che la Marina Militare ha respinto nel 2012 più di 100 attacchi o tentativi di attacchi di pirati a navi mercantili, quindi insomma, voglio dire, c'era una situazione comunque complessa. Da quello che ci risulta, le regole d'ingaggio sono state rispettate e la Torre Girone non hanno sparato sui pescatori. C'è un'altra domanda che ci arriva, insomma, sempre via Twitter, e questa invece la vorrei girare a Vincenzo Camporini, ed è questa: continuano a chiederci, ma insomma, non si è ancora capito perché dobbiamo metterci i militari su quelle navi e perché le compagnie, gli armatori non si prendono dei vigilantes loro, insomma, delle persone che controllino le navi loro, insomma, quindi andiamo ancora più a monte rispetto alla vicenda dei due fucilieri della Marina. Qui c'è un fatto giuridico, perché nel luglio del 2011, in sede di rinnovo del decreto per il finanziamento delle missioni internazionali, venne inserito un articolo che prevedeva l'imbarco di team armati sulle navi mercantili. Questi team armati potevano essere militari o civili, quindi o fatti da soldati oppure da contractor. Nel caso dei contractor era espressamente previsto un regolamento attuativo per diciamo, la gestione di queste attività, che non è mai stato emanato, quindi c'è una impossibilità di fatto oggi per imbarcare a bordo di navi battenti bandiera italiana contractor civili. Io ritengo e sono profondamente convinto che sarebbe stato necessario un regolamento attuativo anche per i team militari, in quanto bisognava definire le rispettive responsabilità e l'autorità di comando, cosa che purtroppo non è stata fatta e che ha ingenerato gli equivoci che hanno portato scusi se la interrompo, che è poi quello che, di cui parlavamo prima, il famoso buco per il quale, pur con dei militari a bordo, sono l'armatore e il comandante che decidono nella sostanza la sorte della nave anche in casi come questi. È quello. Purtroppo questo aspetto non è affatto chiaro, non è stato chiarito giuridicamente, e quindi questo lascia spazio a comportamenti che possono portare anche a situazioni come quella disastrosa che stiamo vivendo. Qualche altro ascoltatore? Andrea dalla provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno, saluto tutti, saluto il generale Camporini. Io mi chiamo Andrea Di Giovanni, sono stato ufficiale dell'aeronautica e mio padre è uno dei 13 aviatori che l'aeronautica militare italiana inviò in Congo nel 1961 sotto la bandiera dell'ONU. Queste 13 persone nel Congo, a Kindu, ormai è un fatto dimenticato, vennero uccise e alla loro memoria è stata concessa la medaglia d'oro al valore. Ora io, tra le altre cose, sto meditando di restituire questa medaglia d'oro. Comunque, il fatto è che poche settimane E perché, Andrea? Perché voglio restituirla? Sì. Perché credo che l'Italia non meriti e non sappia valutare, soprattutto, non sappia valutare qual è il valore di un uomo, perché se no non avrebbe rimandato in India i marinai italiani. Comunque, volevo sottolineare solo una cosa, che poche settimane dopo questo massacro, l'aeronautica militare italiana iniziò una cooperazione con le forze armate congolesi tant'è che io stesso, che nel 1968 iniziai il corso quale allievo pilota dell'aeronautica militare, mi trovai fianco a fianco con gli allievi ufficiali dell'aeronautica militare congolese. Sì. Cioè, questo fu il ringraziamento delle forze armate italiane nei confronti del Congo. Nel 2012 io sono stato invitato a presenziare alla cerimonia a Roma commemorativa di questi dei caduti, di tutti i caduti militari in missioni dell'ONU, e giuro che non andrò mai più, perché noi parenti eravamo relegati non in secondo, in terzo piano, e il primo piano era solamente una vetrina e una sfilata di politici. Quindi sto sinceramente meditando di restituire la medaglia d'oro al valore. Grazie anche per la sua testimonianza, Andrea. Tony Capuozzo, che dire? C'è da dire, guarda, che quest'ultima telefonata, insomma, io credo la bocca lunga sull'amarezza di tanti uomini che vestono la divisa o hanno vestito la divisa. Quello che sta succedendo, qualunque sia il giudizio, molto ci sarebbe da dire sulle circostanze dell'incidente, ma qualunque sia il giudizio, lascia in qualche modo inermi e incerti centinaia e migliaia di uomini nella loro turnazione, uomini che oggi stanno servendo nelle varie missioni all'estero. Io ho una presunzione di innocenza che si deve sempre avere nei confronti di qualunque imputato, indagato, per l'attore Gironi, in particolare però per l'attore, io l'ho conosciuto che mi ha fatto da scorta, da capo scorta. In Afghanistan, no? In Afghanistan. E dove se uno si immagina i nostri militari come dei Rambo dal grilletto facile, insomma, li vedrebbe sparare a ogni momento. L'ho conosciuto in tutta la sua responsabilità, la sua prudenza, la sua fermezza, ma del tutto insomma, all'opposto di quello che uno può immaginare un Rambo, insomma, all'opera, pronto a sparare, il che mi rende davvero molto difficile pensare che spara contro un peschereccio innocuo, senza armi in vista, senza rampini per tentare un abbordaggio, quindi violando delle regole di ingaggio che sono molto chiare. Ma in questo momento, se io fossi in una base avanzata in qualche angolo sperduto dell'Afghanistan e vedo qualcuno avvicinarsi con un fare sospetto, ci penserei 100 volte prima di assumere un'iniziativa, ciò che a volte può essere pericoloso. Allora io credo che stiamo lasciando nell'incertezza centinaia di professionisti seri, insomma, che non hanno. Voglio anche ricordare una cosa: io ho seguito missioni da quella del Libano in poi, che io ricordi, e non credo di sbagliarmi, ci sono state delle battaglie, penso quella del checkpoint Pasta a Mogadiscio, penso quella dei ponti di Nasiriya, ma ricordo un solo episodio in cui un militare italiano abbia fatto fuoco con un tragico sbaglio, ed è avvenuto ad Herat nei confronti di una macchina che si avvicinava, che era stata scambiata per una macchina, un'autobomba, e un militare italiano sparò e purtroppo rimase uccisa una bambina. Mentre noi leggiamo per altri contingenti molto spesso di questi errori, i cosiddetti danni collaterali, a me non risulta che sia mai successo per i nostri militari. Ci sono delle cose e uno stile di lavoro molto chiaro. Beh, noi oggi stiamo mettendo in forze tutto questo. Bella riflessione, Tony. Io ti ringrazio perché so che anche tu ci devi salutare. Adesso noi abbiamo una pausa per la viabilità e poi riprendiamo appunto anche con Rossi, con Camporini e con qualche altro ascoltatore, se ce la facciamo. 9 in punto. Voglio prima di sentire un altro ascoltatore, forse due se ce la facciamo, brevemente sentire Rossi e Camporini su quest'ultima testimonianza di un ascoltatore che in realtà appunto è un militare, se non ho capito bene se è un ex militare e figlio di un militare, insomma è una riflessione molto dura, sta meditando di restituire la medaglia. Sì, Rossi. Pronto? Sì, Rossi, inizierei da lei. Sì, guardi, evidentemente nel momento in cui si giunge a considerare la restituzione di una medaglia al valore, soprattutto assegnata per un fatto grave come quello dell'eccidio in Congo, evidentemente questo è un percorso a cui si arriva sulla base di anni in cui si sono maturati disinteresse e indifferenza da parte delle istituzioni. Questo sicuramente non deve avvenire, e non deve avvenire perché poi l'attenzione nel momento in cui ci sono degli episodi, l'attenzione di tutti è massima, subito dopo questa attenzione decade. Se posso fare un collegamento con quello che sta succedendo con la Torre Girone? Sì, ma il collegamento è esattamente quello, perché poi... Di cui ieri nel mio intervento mi sono preoccupato di far presente è che l'esempio che ci stanno dando in questo momento la Torre Girone, che ricordiamolo, non sono soggetti a restrizioni in Italia, non c'è estradizione per l'India, quindi possiamo dire che sono ritornati volontariamente. Questo esempio è un esempio di professionalità, di senso dello Stato, di essere servitori della patria, ma soprattutto di una cosa che i militari chiamano specificità. Allora, noi ricordiamo l'esempio che ci sta dando, che ci stanno dando i nostri marò oggi per cercare di concludere positivamente questa vicenda, ma prendiamo spunto e ricordiamocelo, cioè non dimentichiamo poi che cosa significa la specificità militare ogni volta che andremo a trattare in Parlamento problematiche che riguardano il mondo in divisa, che invece da troppo tempo è trascurato e disilluso. Guardi, lei mi ha inizialmente citato come ex sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, io sono anche ex presidente del massimo consiglio di rappresentanza del personale militare, noi diciamo sempre che siamo orfani di tutti i governi e coccolati da tutte le opposizioni, questo alla fine crea indifferenza e crea allontanamento dalla realtà del mondo militare, che invece necessita di un'attenzione continua da parte del mondo politico. Però qua invece, Camporini, mi sembra che lo snodo della vicenda della Torre Girone sia fondamentale da questo punto di vista, dal punto di vista anche della delusione che si respira a questo punto negli ambienti militari, della quale abbiamo avuto già due testimonianze solo nel corso di questa trasmissione, e insomma, no? Della quale lo stesso Rossi poi ci ha raccontato. Insomma, la preoccupazione è notevole, mi sembra, e quella testimonianza è lampante da questo punto di vista. Sì, preoccupazione notevole e preoccupazione assolutamente giustificata. Purtroppo le premesse per queste preoccupazioni c'erano già da tempo. Una banalità: noi da anni usiamo nelle missioni internazionali il codice penale militare di pace invece del codice di guerra, che paradossalmente è quello che meglio protegge le popolazioni presso cui si opera e che comunque dà delle garanzie ben chiare, che si tiene conto della contingenza in cui si opera. Noi viviamo invece in una situazione in cui se un nostro militare viene ferito o muore, un magistrato a Roma apre una cartella per omicidio o per lesioni, il che è veramente assurdo in una stazione operativa, e che non dà quelle garanzie di copertura che invece dovrebbero esserci per chi viene mandato in situazioni dove le regole della convivenza civile non possono essere invocate. L'evento dei due marò, in realtà, marò è una brutta parola, dei due fucili di marina, diciamo che era scritto nell'atteggiamento istituzionale che era stato preso e che comunque è mantenuto, senza tenere conto del lavoro particolare, pericoloso, delicato che fanno i militari, che non può essere assimilato ad altri. Come giustamente diceva Rossi, noi abbiamo una specificità che deve essere riconosciuta in primo luogo dal punto di vista istituzionale. Rosa ci chiama da Como, brevemente Rosa. Sì, breve, mi sentite? Buongiorno. Sì, la sentiamo, prego. Allora, io volevo semplicemente dire che sono rimasta basita, che vuol dire molto stupita, dal grande e clamoroso applauso che c'è stato dopo l'intervento di Terzi, perché penso che tra comuni mortali, dopo i contenuti di questo intervento, doveva seguire un silenzio di stupore. Mi sembra, Rossi, lei era in aula, mi sembra gli applausi siano venuti da parte PDL o no? Guardi, gli applausi sono venuti solamente dalla parte del centrodestra. A nome di Scelta Civica noi abbiamo condannato questo tipo di atteggiamento, perché per due motivi. Primo, perché nel momento in cui un ministro fa parte di un organismo collegiale, se c'è una decisione che lui non vuole rispettare o su cui non concorda, è evidente che si può dimettere, ma nel momento della decisione non ha senso, ed è stato di fatto anche una scortesia di carattere istituzionale farlo in Parlamento. Rossi, brevemente, quindi l'applauso proveniente dai banchi del centrodestra in 20 secondi rafforza il vostro sospetto, c'è la manina del PDL nelle dimissioni di Terzi, quindi. Assolutamente sì, ripeto, a meno che non sia fulminato sulla via di Damasco, in un'ora e mezza non si cambia decisione e non si viene a dare dimissioni mettendo fra le altre cose in difficoltà il presidente Monti. Quindi c'è la manina del centrodestra. Secondo me sì. Grazie a Domenico Rossi e Vincenzo Camporini, grazie a tutti voi come sempre per essere stati all'ascolto, a Paolo Corleoni in regia, Franco Piantanide in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, anche Rosa e Nicole al centralino. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 95 giorni all'aumento dell'IVA. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.